lo desiderate. This doesn't make you a Buddhist. Questo non vi rende buddhisti. Okay. So first of all we bow. Innanzitutto ci inchiniamo. This is an expression of surrender. È un'espressione di resa, di abbandono. Yeah, you have to be open to receive the Dhamma. Bisogna essere aperti per ricevere il Dhamma. Because often the Dhamma tells us to do what we don't want to do. Perché spesso il Dhamma ci dice di fare cose che non vogliamo fare. Yeah. And so we bow to these called three jewels, Buddha, Dhamma and Sangha. E quindi ci inchiniamo a quelli che sono chiamati i tre gioielli, il Buddha, il Dhamma e il Sangha. Then we honor the teacher. Poi rendiamo onore all'insegnante. Yeah. And this language is Pali. La lingua che useremo è il Pali. They're not absolutely sure, but a lot of people think this is the language the Buddha actually spoke. E non è sicurissimo, ma molti pensano che fosse la lingua che il Buddha parlava veramente. And you pronounce it just like Italian, open vowels. Si pronuncia un po' come l'italiano con le vocali aperte. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. And then we take refuge in the Buddha. Poi prendiamo rifugio nel Buddha. So this is taking the Buddha as our teacher. È un assumere il Buddha come il nostro insegnante. And also he's our exemplar. E anche come esempio da imitare. We are doing what he himself actually experienced. Stiamo facendo le stesse cose di cui lui ha fatto esperienza. But spiritually it's the Buddha within that we are taking refuge in. Spiritualmente è il Buddha interiore quello in cui prendiamo rifugio. It's the very Buddha within that's brought us here to seek the end of suffering. È proprio quel Buddha interiore che ci ha condotto qui a cercare la fine della sofferenza. And the Dhamma is both the understanding that the Buddha had and the practice. E il Dhamma è sia la comprensione raggiunta dal Buddha che la pratica. Ah. And the Sangha is traditionally all those people who've experienced Nibbana. Il Sangha, secondo la tradizione, è composto da tutte le persone che fanno esperienza del Nirvana. These days the word is used as a self-referential term for Buddhists to talk about themselves, my Sangha. Oggi questo termine è usato in modo autoreferenziale per i buddhisti che parlano di se stessi, il mio, cioè del loro gruppo, il mio Sangha. So you need support for this sort of practice, eh? C'è bisogno di un sostegno per questo tipo di pratica. It really helps to have people around you who are practicing with you. Quindi è un aiuto il fatto di avere delle persone intorno a noi che praticano con noi. So for this time we are our Sangha. E per il periodo di questo ritiro noi siamo il nostro Sangha. And then these are just regular rules that we take just to create the right atmosphere. E poi ci sono queste regole che assumiamo per creare la giusta atmosfera. So just for this weekend or week we'll try not to kill each other. Poi soltanto per questo fine settimana o settimana ci impegniamo a non ucciderci a vicenda. Ah, or steal from each other. Né a rubarci delle cose. Not to indulge erotic and romantic delight. E a non indulgere in piaceri erotici o romantici. Ah, this takes a lot of energy. Yeah? Perché questo porta via un sacco di energia. You need a lot of energy to do this work, eh? E c'è bisogno di molta energia per fare questo lavoro. Not to use wrong speech, this is very easy, because we keep the silence. Non usare parole inappropriate, questo è molto facile perché osserveremo il silenzio. Yes, and not to take anything which will disturb our level of attention. Clear attention. E non assumere nulla che disturbi il nostro livello di attenzione chiara. Not to overeat, this I'll explain more tomorrow. Non mangiare troppo, e di questo parlerò di ancora anche domani. And not to oversleep. E non dormire troppo. Now, most people come with some imbalance in their sleep. La maggior parte delle persone arrivano qui con qualche squilibrio nel loro sonno. Either they're not sleeping enough or sleeping too much. O non dormono abbastanza o dormono troppo. So it takes about 3 days for this to become even. Ci vogliono circa 3 giorni perché la situazione si normalizzi. So those people just on the weekend retreat, don't worry too much if you keep falling asleep. Quindi quelli che sono qui solo per il fine settimana, non preoccupatevi troppo se continuate ad addormentarvi. You may need to sleep, eh? Potrebbe essere che proprio avete bisogno di questo sonno extra. But if you know you're sleeping too much, se vi rendete conto che state dormendo troppo, you have to keep waking yourself up, eh? Allora dovete svegliarvi. Not to indulge in divertimenti. This is not to feed the mind. Non indulgere nei divertimenti significa non nutrire la mente. No Facebook, no. If you want to, if in the evening you want to write something, like a diary, that's fine. Eh? Mm-hmm. Quindi niente Facebook. Se la sera volete scrivere qualcosa sotto forma di diario, va benissimo. But if it begins to become an autobiography, then you have to. Se però comincia a diventare un'autobiografia, dovete abbreviare. Our greatest hindrance is the thinking, imagining mind. Il nostro più grande impedimento è la mente pensante e immaginante. What does that mean? Abbigliamento estetico, what's that? Not to indulge in? Oh yeah, that's right. Yes, don't worry about how you look. Non preoccupatevi dell'aspetto esteriore. Or how you smell. O del vostro odore. Just be natural. Siate naturali. And finally, cherish the noble silence. Curate il nobile silenzio. Yeah. So this means not only not talking to each other. E questo non significa soltanto non parlarci tra di noi. It means also not looking at each other. Significa anche non guardarsi. Because when you look at somebody, you beckon a response. Perché se si guarda qualcuno, si sollecita una risposta. So see if you can keep your eyes down and pretend that everybody around you are just ghosts. Vedete se riuscite a tenere gli occhi bassi e a fingere che tutti quelli che vi circondano siano dei fantasmi. Okay. So we'll do this little ceremony, and then, as I said, we'll do a standing meditation, a sitting meditation, and then we'll end the evening with just a small metta loving kindness practice. Quindi faremo questa piccola cerimonia, poi, come ho detto, una meditazione in piedi, una meditazione seduta, e concluderemo con una pratica di metta, gentilezza amorevole. So join me at if you wish. Quindi se volete, unitevi a me. You can just sit there. Mm-hmm. Yeah. Sì, perché così.